calorosamente, ecco, la nostra biblioteca ogni anno si impegna a ricordare la Shoah, questa giornata della memoria che coincide appunto con il 27 di gennaio, così come durante l'arco dell'anno cerca anche di riproporre e di ricordare altri momenti istituzionali che possano essere d'aiuto per tutti noi per ricordare, ma soprattutto anche per approfondire certe tematiche, per conoscere e non dimenticare. È un tema che è sempre più attuale, abbiamo visto quello che è successo negli ultimi giorni, la cronaca purtroppo è impietosa e ci restituisce un deficit da parte della collettività, o comunque di una parte esigua della collettività, che però a quanto pare ha una forza straordinaria, riesce comunque ad infastidire tutti e a porre anche delle domande su quelle che sono effettivamente le nostre capacità di vincere certe cattiverie, di vincere certi comportamenti ingiusti. E quindi nel nostro piccolo la biblioteca, che è comunque un posto aperto per tutti, per statuto, è una piazza dove ognuno può recarsi senza doversi dichiarare o fare altro, ma semplicemente è invitato a frequentarla, ad usarla e a vedere quello che in essa viene offerto da chi lavora. La biblioteca, ecco, non può esimersi dall'aiutare, dal favorire questi incontri e soprattutto la diffusione di una conoscenza. Anche quest'anno abbiamo fatto delle vetrine con delle bibliografie tematiche per così dare sempre degli spunti nuovi nella lettura. Io ringrazio tantissimo Elisabetta Rossi, ringrazio il signor Inerhofer, ringrazio la comunità ebraica di Merano e ringrazio l'AMPI di Bolzano, che è qui rappresentato dal senatore Leonardo Bertoldi, da Monica Bancario e da tanti altri nostri amici, perché con loro ogni anno riusciamo sempre a creare questi momenti e vengono riportate alla luce dei brani di storia che possono aiutarci a comprendere quello che è stato. E speriamo che serva, adesso al di là della retorica, speriamo che serva davvero, perché invece purtroppo ci si abitua anche al male. E ci si abitua alla decadenza, ci si abitua ad un sacco di cose negative e si abbassa continuamente il livello di guardia. Allora speriamo che la critica, che lo spirito critico venga favorito anche dalla conoscenza e dalla possibilità di costruirsi un proprio percorso cognitivo di conoscenze anche attraverso questi incontri, queste testimonianze e la lettura. Vi ringrazio ancora, perché col vostro aiuto la biblioteca può creare questi momenti, e vi lascio subito la parola. Grazie. Grazie a lei. Invece io ringrazio a mia volta per questa opportunità di mostrare a voi, di leggere insieme a voi degli appunti che grazie al lavoro di Sabine Meyer, che è una nostra ricercatrice, di Joachim Inerhofer, che è il curatore del nostro museo, è un po' presuntuoso, io non ho fatto assolutamente, io leggo il frutto del loro lavoro e appunto stanno cercando di recuperare dati di famiglie, di parenti, un po' anche per favorire, soprattutto per la memoria, quello senz'altro, e un po' per favorire anche le tante richieste che ci giungono praticamente da tutto il mondo, di parenti o di parenti lontani che vivono anche all'estero, che ricercano parenti scomparsi nell'olocausto, oppure che hanno vissuto a Merano e sono tumulati nei nostri cimiteri. È un servizio che vogliamo offrire a tutti, che presto sarà anche disponibile online quando il lavoro sarà finito, e appunto quale migliore occasione che ci ha offerto la biblioteca Claudio Augusta di presentarvi un po' di questi appunti. Io comincerei con un piccolo excursus del contesto storico in cui si sono sviluppati le vicende di queste famiglie in quegli anni. Allora, molte delle vittime del nazismo in Alto Adige erano membri della comunità ebraica di Merano e qui vi praticavano la loro fede. Nella seconda metà del 1900 erano giunti in provincia mercanti ebrei, grazie anche ai nuovi collegamenti ferroviari, in particolare dai paesi orientali della monarchia asburgica, dove la popolazione cristiana aveva reagito contro l'uguaglianza dei diritti civili dei cittadini ebrei e nel 1867 si erano sviluppati molti pogrom anti-ebraici. La crescente attività di cura a Merano, a Gries o a Colisarco, prodotta da medici ebraici anche di fame di livello internazionale, aveva gettato le basi per un'esistenza economica abbastanza diciamo favorevole a un'immigrazione ebraica nel nostro territorio. Parimenti, la fondazione Königswarte, fondata nel 1872 a Merano, assicurava alla popolazione ebraica qui residente di poter espletare la propria religiosità. Negli anni 1920 e 30 giunsero anche rappresentanti della borghesia ebraica da altre province italiane, a Bolzano e Merano, che offrivano parecchie opportunità professionali interessanti. La maggior parte delle famiglie ebraiche si stabilirono a Merano, dove la comunità nel 1922 era stata riconosciuta come comunità indipendente, quindi non più dipendente da Hohenems. Dal 1933 molti rifugiati ebrei giunsero anche dalla Germania in Alto Adige e dal 1938 anche dall'Austria, appunto dove per molte famiglie era dopo l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista nel 12 marzo del 1938 era quasi diventato insomma abbastanza problematico vivere. L'Italia ormai era un importante paese di transito per il viaggio in Palestina, per la fuga a Shanghai o verso il nord e il Sud America. Molti rifugiati giunsero in Alto Adige derubati di tutti i loro averi e forti solamente della loro nuda vita e cercavano un primo rifugio dalla persecuzione da parte dei nazisti. Il 22 agosto 1938 l'ufficio centrale demografico, che dopo il 5 settembre diventò la Direzione Generale per la Demografia e la Razza del Ministero degli Interni italiano, impose nell'ambito delle prime misure antiebraiche adottate dall'Italia in tutto il paese un censimento della popolazione ebraica. Allora, scusate. Da lì in poi, cioè da quel periodo in poi, l'ebraismo è stato dichiarato una razza anche in Italia. Il 12 ottobre del 38 furono pubblicati i risultati del censimento nel quotidiano La Provincia di Bolzano. In provincia di Bolzano furono registrati 938 ebrei, tra cui 69 residenti nella città di Bolzano, 716 residenti a Merano. Nel Trentino invece sono state registrate 51 persone e 29 nella provincia di Belluno. Ormai i cittadini ebrei erano registrati in apposite liste, le loro schede personali accompagnate dal timbro razza ebraica. La maggioranza delle persone registrate, d'ora in poi controllate meticolosamente, non aveva più la cittadinanza italiana. Nel novembre 1938 furono adottati provvedimenti per la difesa della razza italiana dal regime fascista. Le misure discriminatorie prevedevano tra l'altro che i cittadini ebrei rilasciassero entro il mese di marzo del 1939 presso l'ufficio del registro delle rispettive comunità una dichiarazione di appartenenza ebraica. Ebrei che non avevano la cittadinanza italiana dovevano lasciare la provincia di Bolzano entro poche settimane. Tra di loro anche i rifugiati dalla Germania nazista che erano stati supportati da un comitato di aiuto istituito dalla comunità di Merano e che fu attivo fino al completo esaurimento dei propri mezzi. Ai ebrei residenti in Italia che avevano ricevuto la cittadinanza italiana dopo il 1919, la cittadinanza fu ritirata. premi di natalità, prestiti matrimoniali, appalti pubblici o concessioni edilizie erano direttamente connessi all'appartenenza di razza italiana o ariana. Quando iniziò la guerra era proibito agli ebrei rimasti nella provincia di Bolzano frequentare le scuole statali, perseguire professioni nel settore pubblico e altre attività o di sposarsi con non ebrei. A Bolzano frequentare la scuola era già diventato un problema quotidiano. Ricorda ancora oggi Roberto Furcht, che è un ebreo di origine bolzanina, che noi conosciamo anche molto bene, e che adesso vive a Milano. Il 9 agosto del 1929 a Merano, inoltre, ricorda come suo padre, Karl Furcht, direttore della filiale di Bolzano delle compagnie di assicurazione La Fenice e Assicurazione d'Italia, fu strattonato e offeso dal suo ufficio e trascinato in piazza Walter da un commerciante di madrelingua tedesca di Bolzano. Dopo l'occupazione del nord Italia come parte della Operazione Alpe Forland tra il settembre 43 e l'inizio di maggio 45, la Gestapo, l'SS e il servizio di sicurezza, il Sicherheitsdienst, e la polizia ausiliaria nazista su Tirole Ordnungsdienst, così meglio nota come SOT, misero in azione la follia omicida nazista. Gli ebrei ancora residenti nella provincia di Bolzano non avevano più nessuna possibilità di salvarsi. La fuga dallo sterminio era diventato un miracolo, e da questo momento in poi la follia fu totale. Un esempio è la fuga della famiglia del dottore e chirurgo Ezio Polacco, nato nel 1899 a Trieste e sposato con Kammer Ziffer. Come Ezio Polacco era primario all'ospedale civile di Bolzano fino all'annuncio delle leggi antiebraiche nel 1938. Perse il suo lavoro dopo la pubblicazione delle leggi razziali e riuscì a proseguire il suo lavoro come medico in una clinica privata. Ezio Polacco poté fuggire da Bolzano nella notte tra l'8 e il 9 settembre del 1943, grazie al consiglio dell'antinazista Friedel Folger, che la sera, per caso, dell'8 settembre lo incontrò nel treno del Renon e spinse la sua famiglia a fuggire. Adesso un piccolo ritratto della famiglia Furcht. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, i fratelli Karl e Fritz Furcht combatterono come membri dell'esercito austro-ungarico sul fronte meridionale. Il loro padre, Wilhelm Furcht, era nato nella comunità ebraica di Markarec, oggi è un sobborgo, penso si dica così, oggi è un sobborgo della città boema Nova Cerkev. E nel 1862 viveva con sua moglie Termine a Linz, dove aveva un negozio di mercerie e oggetti abbigliamento in pelle. Wilhelm e Hermine Furcht ebbero 5 figli: Karl, Fritz, Rudolf, Gustav e Walter. Durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale, Fritz Furcht prese il tifo e morì nel 1917 a Trento, a neanche 18 anni, e sepolto nel cimitero ebraico di Bolzano. Karl invece cadde in cattività delle forze italiane nel 1917. La sua prigionia si svolse in una fattoria in provincia di Lucca e si rivelò molto piacevole in contrasto con la scena di lotte al fronte, e la cordialità delle persone che lo circondavano animarono nel petto di Karl un amore per l'Italia che lo spinsero a rimanerci fino alla fine della sua prigionia e per conoscere meglio il paese. Karl Furcht in seguito accettò anche l'offerta di rappresentare una compagnia di assicurazioni austriache a Bolzano e cercò negli anni 20 di vendere assicurazione ai contadini altoatesini, cosa che non era un compito molto facile. Nel 1929 sposò a Innsbruck la bolzanina Elena De Carli. Il 9 agosto del 1929 nacque a Merano il suo primo e unico figlio Roberto. Roberto Furcht è l'ebreo ancora vivente, il nostro amico. La famiglia viveva allora in via della Mostra numero 10. Rudolf Hucht nel 1928 fu uno dei fondatori della fabbrica di pianoforte Schulz, Polma & Company. Della ditta Rudolf Hucht era uno degli azionisti più importanti e anche direttore commerciale. Schulz, Polman e Co. avevano un grande successo con ebbero un grande successo nella costruzione dei famosi pianini, il cui acquisto la borghesia ancora si poteva permettere, e sempre di più anche per la costruzione dei cosiddetti pianoforti a incordatura orizzontale. Come impianto serviva anche la produzione di un depot militare della monarchia asburgica, costruito da prigionieri russi durante la Prima Guerra Mondiale, proprio vicino a questa biblioteca. L'indirizzo nel 1935 era via Mendola 11. Già nel 1937 Rudolf Hucht fu escluso dalla ditta e fu costretto a lavorare come rappresentante di pianoforte in modo indipendente. Rudolf, Karl, Elena e Roberto Hucht abbandonarono la città di Bolzano nel novembre del 39 e fuggirono a Milano. Rudolf Hucht invece riuscì a fuggire in Svizzera. Karl Hucht e la sua famiglia furono in grado di nascondersi in Italia e di sopravvivere con una nuova identità grazie a due personaggi coraggiosi: un prete, Giovanni Ferro, direttore del Collegio Gallio di Como, dove Hucht si poté nascondere, ed un parroco di provincia nelle Marche, dove Karl Hucht si poté nascondere nel settembre del 1943. E poter aggiungere anche sua moglie e suo figlio. Sul sito della ditta Hucht Pianoforti di Milano, Roberto Hucht racconta come fu salvato con le seguenti parole. Grazie. L'armistizio dell'8 settembre 1943 aveva colto di sorpresa la mia famiglia sfollata dal 1942 a Cittiglio, Varese. Il 12 settembre un convoglio delle SS passa da Cittiglio. Mentre lo zio si rifugia in Svizzera, il papà si ferma nelle Marche, dove al momento si trova. Mia madre decide di lasciare Cittiglio e si reca con me, 14enne, in stazione. Mentre ci troviamo al bar, entra un gruppo di SS che chiedono al barista se conosce la famiglia Hucht. Sono le stesse SS che qualche giorno più tardi attueranno la strage di Mena a Novara, che sarà la prima strage in Italia di ebrei non militari. Mia mamma e io siamo a pochi centimetri dai militari, ma il barista ha la prontezza di dire che non conosce nessun Hucht. Prendiamo un treno per la prima destinazione possibile, che in quel momento è Como. La mamma cerca e trova un collega d'ufficio, lavorava alla SNIA di Viscosa, che ci accompagna al Collegio Gallio, dove il rettore, padre Giovanni Ferro, mi accoglie e mi fornisce pochi giorni dopo falsi documenti di identità. Al Gallio trascorro gli anni scolastici dal 43 al 45 con il padre rettore, che ogni due giorni mi chiama nel suo ufficio per rinfrancarmi e interessarsi al progresso dei miei studi. Anche il terzo fratello, Gustav Hucht, si trovava a Bolzano negli anni 30. Alla fine del 1930 Gustav andò con la moglie a Parigi. Nel novembre del 42 fu portato da Périgueux a Parigi e trattenuto nel velodrome d'Hiver, da dove venne deportato ad Auschwitz-Birkenau. Un sopravvissuto russo racconta alla famiglia dopo la guerra che Gustav morì negli ultimi giorni prima della liberazione. Anche i nonni di Roberto, Wilhelm e Ermine Fuchs, sono stati uccisi durante la Shoah. Wilhelm in un rifugio di emergenza a Vienna, in Rembrandtstrasse 24, dove fu spinto giù per le scale e morì il 29 gennaio del 39. Ermine Fuchs, l'11 gennaio del 42, fu deportata a Riga. Nel corso degli 8 giorni di deportazione da Vienna a Riga, e considerando le terribili condizioni di vita nel ghetto di Riga che aveva subito precedentemente, non sopravvisse al trasporto. Il 9 maggio del 1945 fu dichiarata deceduta dal Tribunale di Vienna. Dalle ricerche della dottoressa Cinzia Villani si evince che i primi ebrei arrestati nella provincia di Bolzano furono Renzo Carpi e suo figlio Alberto Carpi la mattina del 9 settembre 1943, e questo fu possibile soltanto per la collaborazione e la delazione della popolazione altoatesina. Villani documenta che il testimone della loro cattura, Giovanni Pornbacher, ha trascorso la notte dell'8 settembre con la famiglia Carpi in un rifugio vicino al loro appartamento nella casa in via Leonardo da Vinci 20. Quando Alberto e Giovanni uscirono all'aperto, si avvicinarono degli uomini in uniforme, tra di loro il commerciante Josef Clementi, un vicino e cliente di Renzo Carpi, ed il medico Paul Knapp, allora ufficiale dell'SS, che la stessa mattina del 9 settembre 1943 cercava di arrestare la famiglia Polacco, che era appena fuggita. Lo stesso fu anche coinvolto nell'arresto del noto medico Otto Heller il 15 settembre 1943 e dell'avvocato Wilhelm Alexander Löw, anche chiamato Löwka Donna, il 16 febbraio 1944. Queste informazioni nel nostro database sono state estrapolate dal libro Ebrei Juden di Federico Steinhaus. La famiglia Carpi. Renzo o Lorenzo Carpi è nato a Mantova il 24 luglio del 1887. Nel maggio del 1925 sposò a Mantova Lucia Adele Allegra Rimini. La famiglia Carpi prima viveva a Innsbruck, dove nacque il loro figlio Alberto e Germana. Nel 1933 la famiglia Carpi venne ad abitare a Bolzano in via Leonardo da Vinci 20. Nei locali del piano terra Renzo Carpi aveva una rivendita dal 1934 di cereali, farina e generi alimentari misti. Renzo Carpi aveva proprietà a Monaco, a Mantova, ad Appiano e l'appartamento in via Leonardo da Vinci a Bolzano. Dopo il loro arresto, Renzo e Alberto Carpi sono stati detenuti nel carcere di Bolzano fino al 28 settembre 1943. Lucia Carpi invece fu arrestata con le figlie Germania e Olimpia in una data non sicura tra il 9 e il 28 settembre del 1943. Probabilmente poco prima del 28. Sempre la dottoressa Cinzia Villani presuppone che sono stati deportati nel campo di concentramento di Reichenau insieme a Renzo e ad Alberto Carpi. Secondo invece il centro di documentazione della resistenza austriaca, IDÖV, Lucia Carpi è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove morì nel 1944, come il nipote comunicò allo Yad Vashem, il centro commemorativo ufficiale delle vittime dell'Olocausto in Israele. Circa il luogo di morte e le date di Renzo e Alberto e Germana Carpi non ci sono informazioni, ma di Olimpia Carpi si sa che è stata assassinata ad Auschwitz-Birkenau. Liliana Picciotto data nel suo libro commemorativo Il libro della memoria il 7 marzo 1944 la data della sua morte. Lucia Carpi invece è stata dichiarata deceduta il 3 aprile 1950 dal Tribunale di Mantova. Noi stiamo praticamente andando avanti in maniera cronologica, cioè dai primi arresti in poi. Adesso alcune informazioni sul medico Otto Heller, che era molto famoso a Bolzano, penso che molti di voi se lo ricorderanno. Otto Heller era nato il 21 marzo 1877 a Praga e si laurea in medicina nel 1901 alla facoltà di medicina dell'Università di Vienna. Negli anni successivi pratica durante la stagione estiva nella città termale di Arco in Trentino, dove la sua presenza è documentata dal 1905. Prima della Prima Guerra Mondiale ha vissuto sulla Mendola, facilmente accessibile grazie anche al collegamento della nuova funicolare, finanziata a suo tempo anche grazie al sostegno della famiglia ebraica Schwarz. Dal 1918 Otto Heller ha vissuto a Bolzano lavorando come chirurgo e medico generico prima in vicolo parrocchia 2 e dal 1935 in via della Mostra 1. Era sposato con Elisabeth Burger Heller di Strasburgo e aveva una figlia, Alice Burger. Il 15 settembre 1943 Otto Heller fu arrestato dalle SS a Bolzano e detenuto nel carcere di Bolzano fino al 28 settembre. Durante l'arresto è stato derubato di tutti i suoi averi, degli strumenti medicali e anche della radio, così si evince dai documenti. Sempre per fonte della dottoressa Cinzia Villani si ipotizza che Otto Heller sia stato deportato nel campo di concentramento di Reichenau vicino a Innsbruck assieme alla famiglia Carpi, alla commessa Adalgisa Ascoli di Roma, la segretaria Ida Kaufmann di Vienna, arrestata ora, e assieme a Ilse Kornblum di Slesia e sua figlia Ruth Rosa Eckstein. Probabilmente il 7 marzo 1944 Otto Heller fu deportato da Reichenau ad Auschwitz-Birkenau, dove Otto Heller fu tatuato con i numeri che, come tutti sappiamo, venivano inflitti ai deportati. E da lì fu poi trasferito al campo di concentramento di Buchenwald. Nel campo di concentramento di Buchenwald fu messo ai lavori forzati. Un suo compagno di detenzione, Ferdinand Fechter, che viveva precedentemente in Val di Fiemme prima della sua deportazione, ha confermato che Otto Heller era vivo l'11 aprile 1945, quindi ha vissuto il momento della liberazione del campo di Buchenwald. Accompagnò gli alleati per il campo di concentramento ed ha fornito testimonianza durante il processo su Buchenwald. Il nome del medico di Bolzano era stato nominato in varie radio e in vari giornali italiani, ma da lì in poi si persero le sue tracce. Allora, le vittime della Shoah di Merano, sempre il 16 settembre. Dopo l'arrivo delle SS, 25 persone furono arrestate a Merano. Le liste dei nomi furono consegnate alla polizia italiana. Gli arresti furono organizzati dalle SS Alfons Niederwieser, capo della SD e della Gestapo a Merano. Tra le vittime arrestate il 16 settembre 1943 nelle loro case e derubati di tutti i loro averi e portati nella cantina della casa del Balilla in via Ottoneuber c'erano Charlotte Zipper, il commerciante Emil Löwe, suo figlio Sigrid Löwe, il commerciante Wilhelm Breuer, e sua moglie Katharina Robicek, i loro due figli Fritz Breuer e Edmund Breuer e una parente. Tra le vittime deportate dalla casa Balilla su autocarri attraverso il passo del Giovo per raggiungere il campo di concentramento di Reichenau c'erano anche Jenny Vogel, nata in Slesia, proprietaria della pensione Vogel, aperta nel 1890 con suo marito, che era anche segretario della comunità ebraica di Merano, e sua figlia Ernestine Vogel. Il parrucchiere Adolf Hammer, sua moglie Antonia Taube Kurz, Ludwig Balog, nato in Ungheria, e sua moglie Josefine Freund, proprietaria di Villa Balog, che gestivano questa clinica e che in quei tempi era stata requisita dalle SS. Inoltre c'erano Regina Gentilli, Giovanna Gregori e le sorelle Gertrud Benjamin e Meta Sarason, figlie di Louise Elkan di Berlino e Celestina Le Pene, la fotografia di queste due signore sono ritratte sull'invito di questa sera. Meta Sarason era nata a Polsek nel 1871, vicino a Kaliningrad, ed era sposata con Leopold Sarason, un famoso dottore polacco, che lavorava all'Università di Berlino, e dal 1901 visse prima a Berlino e poi a Merano. La famiglia Elkan era nota per aver dato i natali ad illustri chimici, tra cui Rudolf Theodor Elkan, che nel 1890 a Berlino fondò una fabbrica per produrre ossigeno ad alta concentrazione, e Meta Sarason, chimica anche lei, che nel 1918 brevettò una formula chimica per un antiparassitario ad uso veterinario. Suo marito Leopold Sarason inventò, questo insomma è una curiosità, i bagni Ozet, che furono commercializzati dalla ditta Elkan Eredi, ed era un bagno per quell'epoca molto spumeggiante di ossigeno e arricchito di ozono. Leopold Sarason morì a Merano nel 1918 e fu sepolto nel nostro cimitero. Dunque, quando le SS fecero irruzione alla villa Lauretta, dove loro abitavano, situata tra il passirio e la sinagoga di Merano, le due sorelle si avvelenarono e vennero portate morenti nella casa del Balilla. Tra le vittime deportate da Merano c'erano anche Fanny De Salvo, nata Stern, figlia di Clara Stern, e del banchiere Isidor Isaac Stern, presidente della comunità ebraica di Feuchtwangen in Bavaria. Fanny Stern nel 1936 a Merano sposò il poliziotto Pasqualino De Salvo, e il 4 marzo del 1937 nacque la loro figlia Elena De Salvo, che nel settembre 1943 aveva poco più di 6 anni, era sofferente di tubercolosi e aveva un polmone solo. Quando la madre chiese di non arrestare la figlia malata, fu percossa malamente. I poliziotti che l'arrestarono e la picchiarono si chiamavano Gotch e Hoffman. Emma Safir Gotch, nata nel 1869 nella Repubblica Ceca, gravemente ammalata, a 75 anni era stata strappata dal suo letto da un ex compagno di scuola di suo figlio, Walter Gotch. Avvisati da un vicino di casa, Walter e suo fratello Rudolf Goetz riuscirono a sfuggire e scapparono con la teleferica ad Avelengo. Walter Goetz dichiarò nell'intervista con la dottoressa Acinzia Villani: ad Avelengo noi abbiamo pernottato, ci siamo nascosti dentro un fienile e vedevamo atesini e meranesi tutti con i fucili che giravano alla ricerca di soldati italiani. A Merano hanno occupato il tempio e ne hanno fatto un magazzino. Hanno preso tutto il mobilio delle case dei deportati e rientrando a Merano, tempo dopo, ho trovato presso tante famiglie il nostro mobilio, tutta gente onorata che ha saputo rastrellare bene tutti i valori appartenenti alla famiglia ebrei. Nel libro di Cinzia Villani, citato a pagina 176. Con un bel po' di fortuna, Walter e Rudolf Goetz raggiunsero la stazione di Bolzano. Il nonno di Walter Goetz, Leopold Goetz, era venuto a Merano dalla comunità ebraica di Trebinici in Moravia e faceva il cantore nella nostra sinagoga. I suoi figli Moritz e Hermann Goetz gestivano un negozio di pollame e verdure a Merano in via Mainardo. Penso che molti di voi conosceranno Merano, anche sapranno bene o male logisticamente dove si trova, praticamente una vieta che scende subito dopo Piazza del Grano, quindi in pieno centro. Moritz ed Emma Goetz furono deportati al campo di concentramento di Reichenau, dove Emma morì il 2 febbraio del 44. Scusate solo un secondo, ho perso il filo. Chiedo scusa. Ok. Altri deportati da Merano morirono al campo di concentramento di Reichenau, tra cui l'avvocato John Gitterman, nato a New York, Alfred Berman, Teresa Reich e Josef Honig, tutti nati in Polonia. A Leopoli Josef Honig sposò Helena Flugenstein, con la quale nel 1896 si trasferì a Merano. Helene Hönig morì nel 1900 a Merano e fu sepolta anche lei nel nostro cimitero. Josef e Helena Hönig avevano due figli, Hermann Hönig, che era avvocato e nel 1932 era presidente della Fondazione Felicia Brabander e dal 1936 anche membro del presidio del sanatorio ebraico di Merano, e Moritz Hönig, commerciante di legname e carboni, che era sposato con Nuri Gabay, figlia del commerciante di tappeti orientali e di oggetti d'arte Suleiman Gabay, membro di una famiglia ebraica da Istanbul, vissuta a Monaco e a Merano. Terka Weiss, invece, da Nitra, nel 1922 sposò alla sinagoga ortodossa di Vienna Giulio Berman e venne a Merano, dove prima abitava allo Starkenhof, che il nonno di Giulio Berman, Josef Berman, comprò nel 1885, e poi vissero alla pensione Ortler, dove la famiglia di Terka e Giulio Berman visse al primo piano. Nel settembre del 1943 la famiglia fuggì assieme a Katarina Rappaport-Zadra in Val di Non, dove furono denunciati dal marito della loro amica, di Katarina Rappaport, appunto, membro delle SS, e le donne furono arrestate il 15 ottobre del 43 e riportate a Merano. Giulio Berman riuscì a fuggire in Svizzera. Nel luglio del 1945 la sua pensione, la sua casa fu completamente devastata. È sbagliata la data. No, attenzione. Perché? Luglio del 45 c'era già la liberazione. Ah, ha ragione, sì, però ho questa data qui. Quando è tornato? Ah, scusi, hai ragione. Quando tornò nel luglio del 45, è vero, e trovò la sua casa completamente. Chiedo scusa con tutti questi numeri. Allora, adesso è un piccolo excursus delle vittime di Bolzano. Adalgisa Ascoli, abitava in vicolo delle Erbe 8. Adalgisa Ascoli era nata a Roma nel 1887, ha vissuto dal 1928 a Bolzano, dove lavorava come commessa e abitava sotto i portici al numero 46-3. Nel 1939 abitò in via Cavallari 8, oggi vicolo delle Erbe. Il 19 aprile 1941 Adalgisa Ascoli presentò a Roma la sua dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica. Fu arrestata il 17 settembre a Bolzano. Trattenuta nel carcere di Bolzano, fu deportata. Liliana Picciotto e Cinzia Villani asseriscono che fu portata prima nel campo di concentramento di Reichenau e poi ad Auschwitz-Birkenau. Secondo altre informazioni, invece, Adalgisa Ascoli fu deportata al campo di concentramento di Flossenbürg. Non è noto se Adalgisa Ascoli sia sopravvissuta al trasporto o per quanto tempo sia sopravvissuta al campo di concentramento, né quando e dove morì. Otto Bondi abitava in via Torino 50. Otto Bondi è nato da Pauline Bock e Leopold Bondi nella città boema di Miretice il 9 marzo del 1875. La famiglia viveva già dalla prima guerra mondiale a Bolzano, perché nel mese di aprile 1906 suo fratello Oscar Boldin aveva un negozio di prodotti di pelliceria in piazza Walter numero 4. Otto Bondi aveva dal 1921 al 1931 gestito un vivaio a Grie San Quirino ed era sposato con Ermine Simon. Otto Bondi fuggì il 10 febbraio 1940 con la sorella Erma da Bolzano e morì il 5 ottobre del 1942 in Cile, di uno che è riuscito a scappare. Aldo Castelletti abitava in via Rosmini 20. Aldo Salomone Castelletti era nato nel 1891 a Mantova. Il 28 novembre del 1914 Aldo Castelletti sposava Mantova Bianca Angela Colorni, con la quale ha avuto un figlio, Carlo Alberto Castelletti, e due figlie, Carla e Luciana. Bianca Colorni morì nel 28. Il mercante, Aldo Salomone, si risposò una seconda volta a Budapest con la soprana Ermelinda Barla, conosciuta con il nome d'arte di Linda Carla Ricci, nata ad Ascoli Piceno nel 1896. La Barla portava il nome di Linda Ricci a causa del precedente matrimonio con Renato Ricci, da cui ebbe un figlio, Francesco Ricci, nato ad Ascoli Piceno anche lui. A 23 anni Francesco Ricci aderì al gruppo partigiano Stella Rossa Lupo, uno dei principali gruppi partigiani della provincia di Bologna, ed era direttore politico della seconda brigata in Appennino, in Emilia Romagna e Toscana. Il 10 ottobre 1944 Francesco Ricci fu assassinato nel paese di San Martino di Cadotto dalle SS nella strage di Marzabotto. Il 27 febbraio 1939 la famiglia Castelletti si trasferì a Bolzano. Aldo Castelletti fu arrestato a Merano, anche se è menzionato un suo arresto a Fondo in Val di Non, e fu trattenuto con la sua famiglia fino al 23 ottobre del 1943 nel carcere di Merano. Fatta eccezione per Aldo Castelletti, tutti i familiari arrestati furono rilasciati, in parte perché non soddisfavano i requisiti razziali e in parte per caso. Le due figlie Carla e Luciano sono riuscite il 21 marzo del 44 a darsi alla fuga verso la Svizzera. Suo fratello Carlo Alberto Castelletti morì il 22 gennaio del 1943 a Mantova. Aldo Castelletti venne probabilmente deportato nel campo di concentramento di Reichenau e da lì ad Auschwitz-Birkenau. Per il giorno della sua deportazione ci sono informazioni diversificate fra Liliana Picciotto e Cinzia Villani. È indubbio che ad Auschwitz sia stato registrato con un numero. La data di morte di Aldo Castelletti non è stata ancora identificata. Wilhelm Alexander Löwe, o meglio conosciuto come Löwkadonna, indirizzo dell'ufficio del 1943, Piazza delle Erbe 7. Wilhelm Alexander Löwe è nato a Vienna il 9 giugno del 1873 dall'avvocato moravo Max Anton Löwe e Philippine Kuhn, originaria dell'allora ungherese città, un nome impronunciabile, Miklov, è troppo lungo, scusate, non so pronunciarlo. Oggi è una città slovacca. Anton Max Love lavorava come avvocato per l'Annunziatura Apostolica di Vienna, dove manteneva l'ufficio ad un indirizzo molto elegante vicino all'opera ed era spesso anche presente anche a Roma. Nel 1887 lo studente del liceo liceale Wilhelm Alexander Love, all'età di 14 anni, rinunciò al giudaismo e si convertì al cattolicesimo. Wilhelm Alexander Love studiava giurisprudenza all'Università di Vienna e continuò il lavoro di suo padre. Scusate, sto leggendo ma sto traducendo nello stesso momento, può essere che dica qualche stupidaggine. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Wilhelm Alexander Love si era offerto volontario per il servizio militare nell'esercito austro-ungarico. Si trovò nel Trentino quando incominciarono le trattative di pace. A Sopramonte, vicino Trento, Wilhelm Alexander Love si nascose dalle truppe italiane presso la famiglia del medico Cadonna. Durante questa permanenza si innamorò di Beatrice Cadonna, figlia del medico, e decise di non ritornare a Vienna ma di rimanere in Alto Adige, dove la famiglia Love Cadonna prima visse a Caldaro e dal 1928 a Bolzano. Il 16 febbraio 1944 fu preso durante la notte dall'SS nel suo appartamento di Corso Libertà 36 e portato per l'interrogatorio al quartier generale della Gestapo. Con il pretesto di aver rilasciato dichiarazioni antiregime, fu detenuto nel campo di concentramento di Bolzano, dove fu tra l'altro maltrattato tra l'altro dalla guardia di Nova, originaria di Nova Ponente, Josef Mittermeier. Il 24 ottobre del 1944 Wilhelm fu deportato nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Secondo Liliana Picciotto ricevette il numero di identificazione 199872. Non si sa dove e quando fu assassinato. Si parla di una data sconosciuta dopo il 9 novembre del 1944. Secondo altre testimonianze, invece, sembra sia morto durante il tragitto. Ci sono altre due figure che vorrei illustrarvi brevemente, dopodiché avrei terminato. Uno è Adolf Schwarz. Adolf Schwarz era nato nel 1871. Si può presumere che egli fosse un parente della famiglia Schwarz di Bolzano, perché nel 1933 visse a Merano nella casa Waldenburg in via Schaffer e quindi nella stessa casa di Arnold Schwarz, presidente dell'asilo per israeliti malati indigenti fino alla sua morte nel 1935. Adolf Schwarz viveva prima a Budapest, poi a Bolzano e in Trentino. Visse prima a Budapest, poi a Bolzano in Trentino. Durante il suo soggiorno a Merano, Adolf Schwarz lavorò come impiegato di banca ed era membro della nostra comunità. Sempre secondo Cinzia Villani, Adolf Schwarz fu arrestato in un luogo sconosciuto, probabilmente in Trentino, e portato in prigione a Trento il 20 aprile del 1944. Un comando della polizia di sicurezza dispose il 31 maggio del 1944 il trasporto di 4 ebrei dal carcere di Trento al campo di concentramento di Fossoli, tra i quali la coppia meranese latitante Augapfel, Gino Tedeschi di Arcoli e Adolf Schwarz, appunto. Dopo il 4 giugno del 1944 Adolf Schwarz fu trasferito al campo di concentramento di Fossoli. Il 1 agosto del 1944 fu trasferito a Verona. Da qui fu deportato con l'ultimo treno da Fossoli ad Auschwitz-Birkenau, dove fu assassinato al suo arrivo il 6 agosto del 1944. Secondo il CDEC, il Centro di Documentazione Ebraico Contemporaneo, Adolf Schwarz fu deportato a Bergen-Belsen e lì fu ucciso. Anche i dati dell'United States Holocaust Memorial Museum di Washington dicono che Adolf Schwarz fu deportato da Auschwitz al campo di concentramento di Bergen-Belsen e lì ucciso. Ada Tedesco, via Portici 30. Ada Tedesco nacque il 21 settembre del 1881 da Moisè Tedesco e Enrichetti Leoni a Verona. Ha vissuto almeno negli anni 1942 e 43 a Bolzano. Il 23 settembre del 1943 Ada Tedesco fu arrestata e detenuta in prigione a Bolzano. In giugno del 44 fu trasferita nel carcere di Bressanone e data nelle mani della Gestapo di Innsbruck. Così probabilmente Ada Tedesco giunse nel campo di concentramento di Reichenau. Secondo Federico Steinhaus fu deportata ad Auschwitz-Birkenau il 19 gennaio del 45. Ada Tedesco fu assassinata poco dopo il suo arrivo. Io avrei finito con questi profili che, come ho detto, è un lavoro dei nostri ricercatori. Spero di essere stata abbastanza esaustiva in alcuni casi, come avete sentito le informazioni sono divergenti, però io penso che sia di estrema importanza ricordarli e che il loro sacrificio, almeno con i tempi che corrono, come prima raccontava anche la dottoressa Trevisan, possano e debbano servire a qualcosa. Vi ringrazio. Per prima che ha qualcuno una domanda, vuole chiedere qualcosa. Il nostro sponsorico a disposizione. Nessuno. Comunque, sì. Chieda che ripeta quanto ha scritto di Schwarz, perché non collima la data di un trasporto a Fossoli, perché sì. Fossoli era già stato abbandonato alla fine di giugno del 1940. Di Adolf Schwarz? Sì. Che dovrebbe essere stato trasportato a Fossoli, ma a Fossoli a quella data non esisteva. Questo... non so, cioè io ho questi appunti e li cercheranno loro. Sono solo un esecutivo, ho solo letto. Comunque notiamo questo e guardiamo ancora bene, forse entrava un piccolo errore. Comunque è questo anche da dire che tutti questi che sono stati deportati a Auschwitz o anche a Reichenau, nessuno è tornato più, tutti sono morti, a parte una persona, era una baronessa Bali von Hoffmann si chiamava, era di Vienna, era un'ebrea, veniva a Bolzano, a Merano, si convertì al cristianesimo, il barone di Hoffmann era di Liechtenstein e anche lei prima non si sa dove era lui, però hanno detto a lei ma devi scappare, anche te ti prendono, anche te ti deportano, che fine non si sa che fine faresti. No, a me non succede niente, lei sicurissima, io non sono più ebrea, sono convertito, sono cattolica, poi non sono neanche italiana come cittadina, neanche austriaco, sono di Liechtenstein, anche lei è stata presa e direttamente a Auschwitz. Lei aveva la fortuna che si salvò e poi è tornato e poi... viveva ancora fino quando è morta, fino nel 1976, poi è morta a Merano. però a Bolzano per esempio erano 25 commercianti più o meno che riuscito a scappare e si sono salvati in altre parti, per esempio la famiglia Kienwald, di Oscar Kienwald, aveva una sartoria nel via Principe di Piemonte e oggi Mustergasse, vicolo della nostra, sì. E poi andava, faceva, era molto famoso lui, faceva aveva poi ricevuto poi la licenza che poteva anche vendere, non solo fare il restauro dei vestiti, poteva anche fare e poi vendere. E poi nel 1934 veniva la principessa, la moglie, la regina, moglie del Fuad il primo di Egitto, la regina Nasli Sabri, con il marito Fuad il primo, a Bolzano nell'hotel Bristol. E lui doveva fare 34 dei vestiti per lei. Comunque poi era famosa questa di Kienwald, questa sartoria, e poi si trasferì a Merano. Il fratello aveva lì nella via Matteotti un negozio di lampadari e sì, attrezzi, queste cose. E poi nel 38 aveva anche lui stata registrata a Merano, che di razza ebraica. E poi dopo nel 38 è riuscito a scappare con la famiglia, prima a Verona e poi è stata però presa e poi internata in campagna a Napoli, vicino a Salerno proprio. E poi dopo la liberazione 44 lì si salvò, è stata salvato dagli americani che sono venuti. E poi c'era anche Rudolf Gronau, anche un altro che si salva, come si dice, come si racconta, il Vaticano non ha fatto tanto, non per gli ebrei, non ha salvato tanti, però Gronau ha salvato lui per sua fortuna. Lui era anche un restauratore di quadri, queste cose, e aveva la fortuna, trovava al Vaticano un posto di restauro. E poi dopo la guerra tornato, lui non aveva la cittadinanza italiana ancora, e nel 52 ha ricevuto poi la cittadinanza dopo migliaia di anni di senza. E aveva una figlia, forse qualcuno conosce, la Lili Gronau, era la figlia, e avevano ancora quel negozio fino negli anni 70. E la famiglia più famosa di loro era la Christa Posch, perché lei, la figlia di Gronau, Rudolf Gronau sposò il Peppi Posch di Bolzano, era un politico, e la figlia Christa Posch, questa famosa, forse più in Germania, in Austria, più famosa come qua da noi, questa attrice, Christa Posch. Anche lui si è salvata, e sì, se non saranno morti nei racconti, si saranno anche vivo. Sì. Io non vi faccio domande, perché faccio domande impertinenti come prima, quindi non lo rifaccio. Io ringrazio la comunità ebraica di Merano, che ha fatto una collaborazione con l'AMPI. L'AMPI è onorata di questa collaborazione e mi auguro che troviamo modo ancora di collaborare. Quello che promettiamo noi, per tutti quegli appunti che andremo a leggere avidamente, soprattutto per quelli, tutti quei cittadini, perché siete entrati proprio nello stomaco oggi, di quelli che abitavano a Bolzano. Gli Onelli ce ne sono ancora tanti, Leonardo era impossibile. Siamo noi, siamo quelli che erano accanto ai nostri parenti. Di tutti quelli, noi intendiamo ricordarli facendo inciampare i cittadini di Bolzano. Sì. Metteremo le Stolperstein, le pietre d'inciampo a Bolzano. E quindi andremo esattamente dove abitavano, dove hanno sofferto, e per ognuno di loro metteremo una Stolperstein. Così ci inciamperemo e in quel momento ricorderemo. E questa collaborazione la faremo con la comunità ebraica, ma la faremo soprattutto con l'archivio storico di Bolzano, che già sta studiando. Fornite subito tutte queste cose. Stiamo già collaborando con l'archivio storico. Io, siccome sono sempre un impertinente, io mi dico che però non ci dobbiamo accontentare di narrare. Voi stasera ci avete regalato tante notizie e ci avete fatto anche stare un pochettino male così. Però noi dobbiamo conoscere le ragioni, perché non è stata la Shoah, lo sterminio, che ha una dimensione inimmaginabile. Erano molto pignoli i nazisti e tenevano gli schedari. Qui hanno bruciato tutto, ma fuori gli schedari sono rimasti. Esatto. Allora è rimasto uno schedario che è accessibile a Berlino, dove ci sono quelli internati nei campi. Sono stati 17 milioni e 500 mila. Per questo vi dico, la Shoah non è stato un accidente o qualcuno che era antipatico e non aveva rinunciato alla sua fede ebraica in tempo, o l'aveva fatto e poi non lo teneva. È stato una cosa scientifica. Ecco perché è unica la Shoah. Lo sterminio non fu un accidente tragico. Leggo quello che leggo quando vado nelle scuole. Non fu un terremoto, una carestia, non fu una follia, non erano affatto folli. Fu il frutto di scelte razionali, di cooperazioni scientifiche. Ci fu consenso politico per questo. Intervennero biologi, medici, ingegneri, chimici, uomini di cultura, uomini di religione. Sono coinvolti uomini di religione. Imprenditori politici che fecero i soldi. Intervennero milioni di persone. Sono stati coinvolti, voi ci avete coinvolto questa sera nel nominare i nostri concittadini, ma allora furono coinvolti milioni di persone per questo sterminio, per questo holocausto. E quindi non possiamo limitarci l'ampia a questa funzione di proteggere la memoria. E la memoria è fatta delle ragioni, dei modi, del chi, del perché e anche del riscatto. Perché tutti quelli che sono stati portati ad Auschwitz, io ho conosciuto una che è stata salvata a Auschwitz dai sovietici che entrarono, era una torinese che viaggiavamo in treno, era accanto al finestrino e aveva un braccio alzato, e all'interno del braccio le ho letto che numeretti azzurri terribili, che avevano, solo Auschwitz avevano tatuato all'interno delle braccia. E allora mi raccontò, dice, eravamo rimaste in poche ancora in piedi, perché tutti all'interno di Auschwitz erano stati portati via, erano stati fatti camminare verso la morte che doveva essere lontana. Sono arrivati fino a Mauthausen da Auschwitz, tu sempre a piedi, ognuno che cadeva per terra era morto, perché sciupavano un colpo di pistola per finire lì. Ma quelli che erano rimasti erano i moribondi, erano i morti. E allora dice, eravamo rimasti pochi nella baracca degli italiani ad Auschwitz, dice, eravamo rantolanti per terra, e intanto si aperse la porta, entrò, era alto, biondo, entrò il maresciallo sovietico dentro in questo camerone. Sono rimasto impressionato che non me l'ha raccontato, dice, e il nostro russo era poco, perché parlava russo, e allora lui cantò O sole mio, e cantò agli italiani che stavano per terra, cantò O sole mio, e poi dice, da Svidania in Italia, e questa è stata la liberazione degli italiani, di quella torinese, degli italiani all'interno del campo di concentramento di Auschwitz, dove c'erano solo i moribondi, tutti gli altri erano stati portati a morire da un'altra parte. Questo è il 27 gennaio. Quindi l'impegno che abbiamo, la collaborazione con la comunità ebraica di Merano, con l'archivio storico, è di proteggere questa memoria, perché quello che dobbiamo dire, che dobbiamo saper dire ai giovani, di non farsi sommergere dalla marea dell'indifferenza. Il pericolo è l'indifferenza, è stato loro così. Molti sapevano, non solo il vicino di casa che ha fatto la spia, Leonardo da Vinci, molti altri sapevano, ma hanno girato la testa dall'altra parte perché era pericoloso e perché non si doveva sapere. Quello che dobbiamo impedire ai nostri giovani è di essere sommersi nella melma dell'indifferenza. È quello che dobbiamo fare, perché non solo dovrà più ripetersi, ma chi è sopravvissuto, dicevano a Levi dentro nel campo di concentramento, dice, voi resistete, perché non si decidevano a morire, non morivano, li dovevano ammazzare col gas o mettere nelle camere a gas e bruciare nei forni, e non morivano. E diceva, è inutile che resistete, perché resistevano per testimoniare, dice, io resisto per poter testimoniare. Dice, è inutile che, perché non vi crederanno. Infatti. Così è stato. Quindi adesso i giovani non devono farsi sommergere dalla differenza, perché quell'immenso sacrificio deve servire al riscatto che abbiamo avuto. Noi ci siamo riscattati da questo orrore, tutti assieme ci siamo riscattati da questo orrore, e abbiamo promesso nella nostra Costituzione scolpendo che tutti noi. Cos'è stato quello che è uscito? Cosa è uscito da tutto questo? Un solo articolo. Le donne e gli uomini nascono liberi e con uguali diritti. Questo è uscito. Questo hanno cercato di far scomparire. Allora i giovani vogliono dire, guardate, che il riscatto ha garantito a voi di nascere liberi e di avere i diritti che sono scolpiti nella Costituzione. Ecco perché è bene che ci siamo trovati in questa sera, e ci troveremo ancora. Grazie. Grazie a te, Leonardo. Una breve nota. Dunque, gli ebrei di Merano, fino a non molti anni fa, hanno taciuto su tutto. Ricordo intorno agli anni 70, lavoravo all'Alto Adige e facevo la cronaca nera. Per una combinazione mi ero interessato a dei processi che riguardavano gli ebrei. Allora ero andato al cimitero di Merano. Guardando nelle lapidi avevo visto un nome, Elena Di Salvo. Mi sono ricordato che quella bambina giocava con me perché il padre era collega di mio padre. E quindi veniva a casa mia la bambina con la mamma. Dopo l'8 settembre erano scomparsi. Allora avevo chiesto alla mamma, ma dov'è Elena? Ah, è andata in lungo viaggio, forse tornerà. Poi il tempo era passato e io mi sono dimenticato chiaramente di quella bambina. Ricordavo solo ancora che la mamma mi diceva, stai attento, perché la piccola Elena è malata ai polmoni, e quindi quando giochi cerca di essere gentile e non essere brutale, perché poveretta è ammalata. Va bene. Però su questa faccenda gli ebrei di Merano avevano steso un velo di silenzio. Io continuai a cercare notizie e così il Steinhaus mi passò un rapporto della questura di Merano che dava alcuni particolari, tra i quali appunto come era stata arrestata la piccola Elena con la mamma. Da lì risalì alla vicenda e ne feci una grande pubblicazione che sollevò parecchio scandalo. Gli ebrei di Merano in quel periodo sembrava che avessero la paura di parlare, tant'è vero che Steinhaus non aveva voluto darmi di persona dei ragguagli, ma mi aveva passato questo rapporto della questura. Poi, naturalmente, col passare del tempo c'è stato un risveglio della comunità ebraica, che tuttavia non è così grande perché oggi, si prendono i giornali, della comunità ebraica non si parla se non in un trafiletto che annuncia questa conferenza, di cui va dato atto alla provincia di avere sponsorizzato. Quindi io chiedo che ho chiesto più volte all'autorità comunale Meranesi di intitolare una strada, un giardino, un qualsiasi luogo alla piccola Elena in ricordo di tutti gli ebrei massacrati che avevano vissuto a Merano, però è sempre calato il silenzio. La post-partai non ha mai voluto saperne. Avevo interpellato a suo tempo lo stesso Magnago per fare un'iniziativa simile, anche lui non aveva voluto saperne. È uno strano atteggiamento da parte della post-partai che su queste cose si chiude a riccio. Quindi persone coinvolte, esatto. Ma un po' di propaganda più attiva, perché ripeto, oggi nonostante la Shoah, la giornata della Shoah, non si è sentito una parola. Negli anni passati, quando c'erano i vecchi cronisti a Milano, allora riepilogavano i fatti, ora tutti si sono dimenticati. Grazie. Senta, io non so cosa dire. C'è un altro signore? Ci sono, c'è qualcuno, subito, c'è qualcuno che fa la proposta, ha fatto la proposta per chiamare una piazza, una strada. Sì. Era una, non lui proprio, però lui è di questa stessa o stesso partito che una volta perseguitavano gli ebrei, e quello oggi chiede di chiamare una piazza, una strada. Era Minitti che voleva fare chiamare una piazza o una strada di Carpi, Olimpia Carpi. C'è riuscito a c'è già la strada. Sì, ma sì. A Bolzano. Bolzano. Non a Merano. No, questa gente che perseguitava. Beh, io volevo rispondere dopo, un attimo. Scusa, io c'è anche volevo... un signore che ha fatto una domanda. Posso? Sì, prego. Non riesco a rispondere a nessuno, rispondo tutti dopo, alla fine. Prendo spunto dal libro di Steinhaus. Sì. Ebrei Juden, che voi avete correttamente citato in una sì, alcune fonti, alcune date 197, in una nota viene riportato mi chiede troppo adesso. Viene riportato il caso di avete anche citato di Zadra Rappaport, sì. Denunciata da un amico, sì. E nella nota la cosa interessante è che nel 1948 la comunità ebraica di Merano denunciò il marito che fu poi condannato. Ora io prendo spunto da questo caso per chiedervi, non è forse arrivato il momento da parte di tutti finalmente di capire quali furono le complicità di coloro che denunciarono gli ebrei della comunità ebraica di Merano e di Bolzano, di cominciare a fare i nomi e cognomi, di rispolverare un po' sotto, come dire, il tappeto della complicità che pure ci fu. Cioè mi sembra sinceramente, io vivo qui in Alto Adige dal 79, che si atti troppo quell'adagio manzoniano, piacere, sopire, troncare. Ecco, si potrebbe finalmente cominciare anche a levare questo humus che pervade un po' questa. Lei dice grazie. Di fare i nomi? Sì. Laddove, senza criticare nessuno, di nomi ne sappiamo molti. Purtroppo lei sa com'è la nostra legislatura, ci vogliono prove, cioè chi di noi anche nel passato ha provato a fare i nomi, compreso Federico che si è beccato una denuncia e l'ha persa, cioè non è una cosa facile, coram populi, molti, quasi tu, cioè ne sappiamo tantissimi, però c'è sempre il solito però, bisogna provarlo, bisogna avere prove certe, bisogna avere testimonianze, è difficile No, non sarebbe neanche così difficile provare, è più difficile che la gente si esponga, che ci metta la faccia, che dica ok, io sono disposto a testimoniare che Tizio Caio un giorno l'ho visto io, l'hanno visto altri. Cioè ci vuole diciamo un supporto di questo tipo. Prego. Ce ne sono tanti, molti ebrei hanno riconosciuto o amici di ebrei hanno riconosciuto cose, oggetti in altre case, sappiamo anche di grosse ditte di spedizionieri che tuttora hanno grosse quantitativi di oggetti. Lo so, la Hartmann, bravo, l'ha detto lei, volevo dire la Hartmann, è vero, ne hanno tanti, ma non è una paura, guardi a me sinceramente, cioè io diciamo ho un ruolo all'interno della comunità che risale agli anni 90, prima non ero nemmeno iscritta, non avevo avuto nessuna parte attiva, e le dico che oggi come oggi quello che mi spaventa nella realtà odierna dei nostri giorni, come diceva prima Lionello, l'indifferenza, ma quello che mi fa più ancora paura è l'ignoranza, cioè cosa abbiamo sbagliato, perché la gente e i giovani non sanno, cioè come è possibile, adesso è proprio notizia di questi giorni, sta andando sul web, è andata persino, l'ho sentita persino nelle televisioni, una famosa trasmissione di quiz, L'eredità, chiede in che anno fu nominato cancelliero Hitler, gli danno quattro risposte, 1933, 1948, 64 e 70, 79, insomma una roba del genere, così non ha importanza, comunque le prime due risposte sono state 64 e 70, ci rendiamo conto? Cioè, allora, davanti a una cosa del genere, io mi chiedo, o ci chiedo, cioè, ci dobbiamo chiedere cosa abbiamo sbagliato. Prego. Non la sento. Ah, sì. Sì, ma qui non c'entra ebreo o non ebreo. Per me in Italia, ed è solo per non mediarsi, ma tanto, il problema è che gli italiani non lo fanno, sono leggeri in tutto. Io mi sono sentito come una merda di fronte a dei tedeschi, quando facevo l'università, perché gli italiani fanno battute. Ho fatto una battuta non sulla Shoah, ma comunque sulle stereotipi di quelli che può essere gli ebrei legati al denaro, e un amico tedesco allora, collega all'università, mi ha redarguito. Poi andando, non si fanno battute sugli ebrei, e sono rimasto un attimino. Da allora non le faccio più e mi scuso per quelle che ho fatto in precedenza, però barzellette ci sono sempre. Qualche anno fa vendevano zucchero, sentito, no? Prego? Vendevano bustini di zucchero qualche anno fa in Friuli con barzellette contro gli ebrei. Beh, no, tutt'oggi si vendono vini in tutti gli autogrill italiani, io faccio una lotta ormai da 2 anni, stiamo cercando di intentare un'azione legale, vini con la fotografia di Hitler, Mussolini, cioè i cancelli di Auschwitz, una cosa indegna, cioè negli autogrill non li ha mai visti, io ne ho visti più di uno, e per giunta c'erano qui parecchi negozi, anche qui nell'Alto Adige devo dire che dopo pressioni proprio e l'aiuto anche delle forze dell'ordine, mi hanno dato una grandissima mano in questo senso, tutte, perlomeno le vetrine dei negozi, una Tirolo, una Toscen, un paio Merano, una Bolzano, li hanno ritirati dalle vetrine, li devono tenere insomma nascosti almeno, è già stata una piccola vittoria per quello che riguarda almeno la provincia autonoma di Bolzano, nel resto d'Italia ce ne sono dappertutto. Cioè, io qua in Germania, molto buona riguardo a quello che è stato passato, cioè nessuno di quelli con quali ho parlato si mortificava ancora per quello che era stato la Shoah e la Costituzione. Io non so, la mia insegna tedesco, siamo un popolo sanguinario, cioè è stata fatta un'opera di educazione, di rieducazione si può. Nel, solo nell'Ovest, Est no, perché è un altro tipo di cultura comunque, sì. In Italia invece c'è sempre questa cosa del mito, l'italiano brava gente, che per carità ce n'è tanta, per carità ce n'è tanta, però e ce n'è stata tanta, però ci sono stati anche, cioè, tutto, le leggi razziali non è che erano molto differenti da quelle che erano in Germania, cioè hanno partecipato anche lì scienziati, biologi. eccetera eccetera, cioè non la sento, mi scusi. Il punto, c'è un punto che non avete, che nessuno ha capito ancora, che i ragazzi di oggi non leggono, dovete dargli delle informazioni filmate, e questo il segreto. No, per mio modesto parere, io non sono un insegnante, sono soltanto una che è andata a scuola a suo tempo, però vedo che i ragazzi arrivano impreparati a questo periodo e sono ancora più impreparati dopo. Prego. Dopo voglio dire una cosa. Sì, sì, sì. Forse bisognerebbe, non so, trovare delle sinergie tra noi, i vari movimenti, l'AMPI, la scuola, le istituzioni. Esatto. Quello che voglio dire è che ormai, purtroppo, la guerra è finita tanto tempo. Sì? I testimoni viventi non ce ne sono più. O molto pochi, una serie. Quello che si rischia è che già, cioè, devi dire 11 settembre nelle gradacce non c'erano ebrei, tutto alla fine. Dunque, per me l'unica soluzione è culturale, bisogna dare forza e conoscenza, ma non solo sulla Shoah, ma su quello che è. Sa, a me, io penso che alla fine di tutto si ritorni sempre alla stessa vecchia storia, si ha paura del diverso. Esatto. Anche noi oggi abbiamo paura degli immigrati, abbiamo paura di accogliere la gente, ma come non c'è lavoro per noi, questi vengono qua, ce lo rubano, e non abbiamo neanche noi i mezzi, come facciamo? Si può, perché come diceva mio nonno e come dicevano, penso, molti dei nostri anziani, dove si mangia in tre si mangia anche in quattro, è una cosa, lo so, da economia quasi domestica, però è così, perché noi non abbiamo più la facoltà, la propensione all'accoglienza, all'apertura, alla conoscenza. Cioè, noi, ci spaventa tutto quello che è diverso, anche in casa nostra ci spaventa un gay, cioè non lo so, cioè, guardiamoci, cioè, è inutile che, come diceva il signore, bisogna fare i nomi, chiamiamo i problemi con il proprio nome. Molti di noi ancora purtroppo sono succubi di stereotipi e di ignoranza. No, perché l'ignoranza nel senso che non conoscono o non sono stati messi in grado di conoscere, e oltretutto sono anche poco curiosi, e sta a noi stimolare questa curiosità, favorire in loro la conoscenza, perché solo conoscendoci non si ha paura del diverso. Posso dire una cosa? Io sgombrerei un attimo il campo dal discorso italiani e tedeschi, perché sì, secondo me ci sono dei deficit da una parte e anche dall'altra, così come ci sono tante iniziative da una parte e dall'altra. Allora, togliendoci da questo impiccio, invece penso che, questo è un suggerimento che mi sento di dare, la scorsa settimana qui è stata presentata una ricerca del laboratorio di storia di Rovereto, fatto da persone volontarie che da più di 13 anni stanno dando a delle cifre tatuate su un braccio dei nomi, un volto e anche scampoli di storia. Questo è un progetto straordinario che colpisce, come è stato questa sera, perché restituisce una concretezza, una commozione anche suscita, che vale molto più di tante altre cose, purtroppo, perché se noi dopo 70 anni siamo ancora qui a dirci, a lagnarci che insomma, i giovani di oggi non hanno capito, tanto cercano di dimenticare. No, non sto dando colpe, però qualcosa non funziona. Noi più grandi dei giovani. Qualcosa non funziona. Allora, forse, invece, attraverso delle ricerche storiche, anche di persone appunto che professionalmente sanno come arrivare a questi archivi che esistono, perché anche Lionello l'ha detto, ci sono ancora degli archivi, ci sono i documenti, ci sono le fonti che possono essere indagate da questi scienziati del mestiere, però nello stesso tempo bisogna renderli un po' concreti, cioè un po' tangibili e un po' diciamo restituire a loro quella tragica realtà che hanno questi volti, perché se no sembra una cosa che non ci sfiora, che non può ritornare. Bisogna renderla fruibile, cioè nel senso bisogna poi comunicarle. Esatto, che no, invece attraverso delle ricerche, però anche calandoci in questa quotidianità e anche veramente semplicità di una vita che si è dimenticata, di una persona che non necessariamente è stata una persona di grandi ruoli sociali, ma esatto, una bambina, un commerciante, la vicina di casa. Ecco, esatto, sì. Questo può avvicinarci di più, insomma, e anche nei ragazzi, nei giovani può sicuramente suscitare, se non altro, un interesse o una commozione, perché non può lasciare indifferente una cosa del genere, no? Voglio dire una cosa. Dimmi. Innanzitutto l'osservazione. Sarà un caso che i primi ebrei deportati dall'Italia sono partiti da Bolzano? No. Allora, pensiamoci. E poi io non sono d'accordo che la scuola ha una grande responsabilità. Tutti abbiamo una responsabilità. Ci impegniamo. Però tocca alla famiglia. Esatto. Tocca alla scuola. Tocca alla società, alle istituzioni. Se no, come possono capire i giovani se non ci viene così? Sì, Lionello, ma questa è la civiltà dell'immagine. Va bene. Non è più l'immagine dello scritto. Lasciami che poi ne parliamo. Per quello che guardate che in questo momento nelle scuole di Bolzano, molte scuole di Bolzano, stanno facendo lo stesso lavoro. Stanno facendo lo stesso lavoro di approfondimento. Nei TC di via Cadorna, il 29, c'è una mostra e ci saranno un sacco di dibattiti promossi dagli studenti all'interno delle scuole. Stamattina il cantore ebreo che conosco è con la moglie, è andato in diverse scuole a rappresentare questo. Le scuole si sono sollecitate, se c'è il professore avvertito, se c'è il presidente disponibile, rispondono. Le scuole di Bolzano hanno già risposto. A Bolzano, dalla provincia di Bolzano, ogni anno parte un viaggio che va ad Austria e porta via 150 studenti ogni anno, e sono già 3 anni che fanno questo viaggio. Sapete cosa succede quando tornano gli studenti? Gli studenti tornano, raccontano e poi cercano di mobilitarsi. 3 di loro che sono tornati l'anno scorso si sono iscritti all'AMPI, sono diventati partigiani della Costituzione perché sono impegnati in questo lavoro. Quest'anno da Bolzano, alla fine di marzo, venerdì, l'ultimo venerdì e l'ultimo sabato di marzo, partiranno un viaggio nel cuore bruciato della resistenza italiana, che è Montessore, che è Marzabotto. Andranno via 2 classi, una di lingua italiana e una di lingua tedesca, che viaggeranno assieme ai loro accompagnatori, ai loro insegnanti. Andranno, visiteranno con cura, sarà un viaggio di studio, e poi torneranno. E per tutto il loro periodo scolastico ricorderanno e metteranno all'interno della scuola questa notizia. Il lavoro è fatto così e bisogna avere la pazienza è una virtù rivoluzionaria. Occorre farlo tutti i giorni con molta pazienza. Ve lo dice uno che lo fa almeno da 15 giorni. E Lionello, se ti può consolare, nome dei docenti e della scuola, perché sulla scuola tutte le colpe della società sono della scuola, ci vorrebbero le parole del Presidente dell'anno. Grazie. No, comunque, Lionello, se ti può consolare, nel nostro museo noi abbiamo vari progetti per le scuole e ogni anno vengono numerosissime scolaresche di ogni ordine e grado di madrelingua italiana, tedesca e anche dal Trentino a visitare la nostra sinagoga con l'aiuto di Joachim e di Vera, che fanno un lavoro eccelso. Più di così non ne possono prendere, non si riesce, veramente siamo strapieni da novembre a maggio. È poco, ma è sempre qualcosa. Grazie, prego, grazie a voi, grazie a tutti.